peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo alcuni brani presi da musicisti che attivi, diciamo, in un periodo estremamente importante e di grande svolta per la storia del jazz. Parliamo dal 59 al 61, registrazioni che vanno dal 59 al 61. E questo è stato un periodo nel quale appunto lavoravano e maturavano musicisti come John Coltrane nella sua innovazione, nella sua grande ricerca, cambiamento che sarà poi importantissimo per quello che succederà dopo, Ornette Coleman e poi come dire anche Charlie Mingus, Miles Davis. E anche una seconda fila, tutto sommato, se così si può definire, ad esempio Dave Brubeck, che è il primo dal quale ascolteremo alcuni brani, che sono stati registrati nel 59 e nel 60, e che vedono appunto una ristampa in questo periodo che deve la sua pubblicazione grazie alla rivista Musica Jazz nell'allegato di febbraio di Musica Jazz. È preziosa questa ristampa perché fotografa una collaborazione che in realtà è durata molto di più di quanto non possa apparire da un punto di vista discografico, ed è la collaborazione di Dave Brubeck con Bill Smith. Sappiamo che il partecipante principe della formazione di Brubeck era Paul Desmond, ma probabilmente anche grazie alla sua proverbiale pigrizia, forse Dave Brubeck cercava anche collaborazioni con altri. Un vecchio amico e collaboratore, compagno anche di studi, è stato Bill Smith, clarinettista, che ha fatto anche lui parte di quella schiera di musicisti che si sono formati alla scuola di Darius Milhaud, che aveva abbandonato la Francia. Era un musicista, un autore di pagine tra le più importanti del Novecento, ma che era stato affascinato, insieme anche a Maurice Ravel e ad altri, era stato affascinato da quello che accadeva negli Stati Uniti e si era trasferito intorno alla metà degli anni 30, fondando una scuola. E l'allievo prediletto è anche quello che ha avuto un successo maggiore, sicuramente Dave Brubeck, ma tra questi compariva anche Bill Smith, clarinettista, nato nel 20, è morto peraltro un paio di settimane fa, alla fine di febbraio di quest'anno, quindi che avrebbe compiuto 100 anni, quindi una lunga vita, sicuramente non molto fertile da un punto di vista della creatività artistica, ma questa collaborazione con Brubeck è continuata anche negli anni, anche dopo la morte di Paul Desmond, e quindi è continuata. È interessante perché cambia anche la connotazione stilistica del quartetto. Naturalmente rimane sempre questa atmosfera rarefatta, molto fredda, molto distaccata, molto anche barocca nel suo interplay tra i musicisti, ma emerge un'influenza evidente e molto forte da parte di Jimmy Jaffery per quanto riguarda appunto lo stile di Billy Smith. Ascoltiamo questa ristampa dei Fontana, di due dischi usciti per l'etichetta Fontana, storica etichetta di quegli anni, e che appunto rappresentano a pieno quello che è lo stile di questo quartetto, che è completato dal solito gruppo, il solito quartetto di Brubeck, con Jane Wright al contrabbasso e Joe Morello alla batteria. Siamo nel 59.

Questo era il quartetto di Dave Brubeck con al clarinetto Bill Smith, poi naturalmente John Wright al basso e John Morello alla batteria, il solito quartetto. Quindi solo la sostituzione di Paul Desmond con Bill Smith. E quindi i primi due brani erano presi dal 59 da un disco intitolato The Riddle, e i secondi erano presi da Brubeck alla Mod, tutti e due dischi fantasy. Poi il primo è stato ripubblicato dalla Columbia a suo tempo, e che quindi sono ma in modo diciamo sicuramente interessante questa riproposta da parte di musica jazz. E prossimo gruppo è il quartetto di Stan Getz, una registrazione inedita che è stata ritrovata, come ormai spesso accade, il ritrovamento di concerti registrati in ottimo modo, questo insomma, è sempre più frequente, ed è, come dire, un'ottima occasione per ascoltare una formazione notevolissima, perché è un quartetto con Steve Kuhn al pianoforte, John Neves al basso e Roy Haynes alla batteria, quindi un quartetto di altissimo profilo, in un registrazione dove mostra al meglio Stan Getz quelle che sono le sue capacità analitiche e di esposizione, una lucidità di fraseggio veramente impressionante. Pensare che è dal vivo, quindi non ha un attimo di esitazione né un ripensamento, ha una narrativa rilassata e precisissima. Ogni nota ricorda, ogni percorso ricorda come un'evocazione di altri temi, e questo fraseggio orizzontale che di cui parlava Gunther Schuller proprio negli anni 50, riferendosi all'Ester Young, e in questo caso proprio la discendenza dell'Ester Young è piuttosto evidente. E lo ascoltiamo qui in due brani, due classici. Il primo è uno standard di Cole Porter, il secondo è un classico del bebop. E l'esposizione, il modo di fraseggiare veramente sono emblematici per questo straordinario sassofonista che poi in quegli anni stava cercando le strade per reinterpretare o interpretare, avvicinare comunque il jazz alla samba, alla classica forma musicale brasiliana, e con i risultati che poi abbiamo apprezzato nel tempo, che sono rimasti anche uno dei successi più grandi da un punto di vista del pubblico. Questo caso invece no, siamo su un classico quartetto jazz. Ascoltiamoli. Thank you.

Questo era il quartetto di Stan Getz con Steve Kuhn al pianoforte e Roy Haynes alla batteria, oltre che a John Neves al contrabbasso. Un disco uscito l'anno scorso per la Verve, per l'etichetta Verve, quindi quella ufficiale di Stan Getz, intitolato Getz at the Gate, Live at the Village Gate del 61. E il prossimo, un'altra ristampa, una ristampa preziosa, ma preziosa anche perché per ricordare un musicista decisamente poco fortunato nella sua carriera, e sarà una carriera massacrata, veramente massacrata dalle droghe, dall'alcolismo e droghe, eccetera. E si tratta di Tina Brooks, sassofonista tenore, che praticamente la sua vita artistica si esaurisce dal 58 arrivare al 62 più o meno, poi rimarrà per 12 anni inattivo, proprio perché è incapace di fare qualunque cosa, distrutto dalle droghe, poi morirà piuttosto giovane, aveva una quarantina d'anni più o meno. Ma Tina Brooks, che ha avuto dopo la morte una certa fortuna, è stato riscoperto, perché le registrazioni ufficiali furono fatte per l'etichetta Blue Note e sono due i dischi che uscirono a nome suo. Dopo la sua morte furono pubblicate altri due inediti che erano stati registrati sempre con musicisti di primissimo livello, perché poi i collaboratori di Tina Brooks, che nasce artisticamente un po' tra le fila di Art Blakey, che ne ha fatti veramente, ne ha accompagnati molti ad avere la carriera che meritavano, quindi è stato un talent scout indiscusso. In questo caso il talento è veramente prodigioso, però purtroppo non riesce ad esprimersi come avrebbe potuto meritare. È stato pubblicato un integrale poche settimane fa per un'etichetta un po', diciamo, di nicchia, si tratta della Fono, la Fono Records, che appunto raccoglie tutto il materiale, sono 23 brani, tutto il materiale inciso da Tina Brooks. Lo ascoltiamo in questo caso in una registrazione, nella prima registrazione fatta a suo nome, con un proprio gruppo, un quintetto, con Lee Morgan alla tromba, bravissimo, straordinario, Sonny Clark, altro personaggio che ha avuto una fortuna piuttosto breve, al pianoforte, e Doug Watkins al contrabbasso e Art Blakey alla batteria, che non ha bisogno certo di commenti. Ascolteremo un brano, che è il brano di apertura poi. Thank you. Questo era il quintetto di Tina Brooks con Lee Morgan alla tromba e Sonny Clark al pianoforte, Art Blakey alla batteria e Doug Watkins al contrabbasso. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito a Radio Città Fujiko, alla sezione Musica Playlist. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.